Oggi leggiamo, dagli amori difficili di Italo Calvino, l'avventura di un miope. Amilcare Carruga era ancor giovane, non sprovvisto di risorse, senza esagerate ambizioni materiali o spirituali. Nulla gli impediva dunque di godere la vita. Eppure s'accorse che da un po' di tempo questa vita per lui andava impercettibilmente perdendo sapore. Cose da niente, come per esempio il guardare le donne per la strada. Una volta usava buttare loro gli occhi addosso, avido. Adesso magari faceva istintivamente per guardarle, ma subito gli pareva che scorressero via come un vento, senza dargli nessuna sensazione. E allora abbassava indifferente le palpebre. Le città nuove una volta lo esaltavano. Viaggiava spesso, essendo nel commercio. Adesso ne avvertiva solo il fastidio, la confusione, il disorientamento. Prima la sera usava, vivendo solo, andare sempre al cinema. Ci si divertiva qualunque spettacolo ci fosse. Chi ci va tutte le sere è come se vedesse un unico grande film in continuazione. Conosce tutti gli attori, anche le macchiette e i generici. E già questo di riconoscerli ogni volta è divertente. Ebbene, anche al cinema adesso tutte queste facce gli parevano diventate scialbe, piatte, anonime. S'annoiava. Alla fine capì. Era lui che era miope. L'oculista gli ordinò un paio d'occhiali. Da quel momento la sua vita cambiò. Divenne 100 volte più ricca di interesse di prima. Già l'inforcare gli occhiali era ogni volta un'emozione. Si trovava, mettiamo, una fermata del tram e lo prendeva la tristezza che tutto, persone, oggetti intorno, fosse così generico, banale, logoro d'essere com'era, e lui lì ad annaspare in mezzo a un molle mondo di forme e di colori quasi sfatti. Si metteva gli occhiali per leggere il numero di un tram che arrivava e allora tutto cambiava. Le cose più qualsiasi, anche un palo della corrente, si disegnavano con tanti minuti particolari, con linee così nitide, e le facce sconosciute si riempivano ognuno di segnetti, puntini della barba, brufolini, sfumature dell'espressione che prima non si sospettavano. E i vestiti si capiva di che stoffa erano fatti, si indovinava il tessuto, si spiava il logoro degli orli. Guardare diventava un divertimento, uno spettacolo. Non il guardare una cosa o l'altro. Guardare. Così Amilcare Carruga dimenticava di badare ai numeri dei tram, perdeva una corsa dopo l'altra oppure saliva su di un tram sbagliato. Vedeva una quantità tale di cose che era come se non vedesse più nulla. Dovette a poco farci l'abitudine, imparare da capo quello che era inutile guardare e quello che era necessario. Le donne, poi, che incontrava per strada e che già gli si erano ridotte a impalpabili ombre sfocate. Adesso il poterle vedere con l'esatte gioco di pieni e vuoti che fanno i loro corpi muovendosi dentro le vesti e valutare la freschezza della pelle e il calore contenuto nello sguardo, non più soltanto gli pareva un vederle, ma già addirittura un possederle. Stava magari camminando senza occhiali, non li metteva sempre per non affaticarsi inutilmente, ma solo se doveva guardare lontano. Ed ecco, avanti sul marciapiede gli si profilava una veste di colore vivace. Con un gesto già automatico Amilcare aveva subito estratto gli occhiali di tasca e se li era calati sul naso. Questa indiscriminata cupidigia di sensazione era spesso punita. Magari era una vecchia. Amilcare Carruga diventò più cauto e alle volte una donna che avanzava gli pareva ai colori all'incedere troppo modesta e insignificante da non prendersi in considerazione. Non metteva gli occhiali. Ma quando poi arrivavano a sfiorarsi, si accorgeva che c'era invece in lei qualcosa che lo attraeva fortemente. Chissà che cosa. E gli pareva di cogliere in quell'attimo uno sguardo di lei come d'attesa. Forse lo sguardo che lei già dal suo primo apparire gli aveva tenuto addosso e lui non se n'era accorto. Ma ormai era tardi, era sparita al crocicchio, era salito sull'autobus, era lontano oltre il semaforo. E lui non avrebbe più saputo riconoscerla. Così, attraverso la necessità degli occhiali, andava lentamente imparando a vivere. Ma il mondo più nuovo che gli aprivano gli occhiali era quello della notte. La città notturna, già avvolta di informi nubi di buio e di chiarori colorati, ora rivelava partizioni esatte, rilievi, prospettive. Le luci avevano contorni precisi. Le scritte al neon, prima immersi in un alone indistinto, ora scandivano lettera da lettera. Il bello della notte era però che quel margine di indeterminatezza che le lenti alla luce del giorno fugavano qui permaneva. Ad Amilcare Carruga veniva il desiderio di mettersi gli occhiali e poi si accorgeva che li aveva già. Il senso della pienezza non pareggiava mai la spinta dell'insoddisfazione. L'oscurità era un terriccio senza fondo in cui egli non era mai stanco di scavare. Di sulle vie, sopra le case pezzate di finestre gialle finalmente quadre, alzava gli occhi verso il cielo stellato e scopriva che le stelle non erano spiaccicate sul fondo del cielo come uova rotte, ma erano trafitture acutissime di luce che aprivano intorno a sé infinite lontananze. Queste nuove preoccupazioni sulla realtà del mondo esterno non erano disgiunte dalle preoccupazioni su ciò che lui stesso era, dovuto sempre all'uso degli occhiali. Amilcare Carruga non dava molta importanza a se stesso, però, come talvolta succede proprio alle persone più modeste, era oltremodo affezionata alla sua maniera d'essere. Ora, il passaggio dalla categoria degli uomini senza occhiali a quella degli uomini con gli occhiali sembra niente, ma è un salto molto grosso. Si pensi che quando uno che non ti conosce cerca di definirti, la prima cosa che dice è «uno con gli occhiali». Così quel particolare accessorio, che 15 giorni fa ti era completamente estraneo, diventa il primo tuo attributo, si identifica con la tua essenza stessa. Ad Amilcare, scioccamente se vogliamo, diventava così di punto in bianco uno con gli occhiali. Un po' seccava. Ma non è tanto questo, è che basta che cominci ad insinuartisi il dubbio che tutto ciò che ti riguarda è puramente accidentale, passibile di trasformazione, e che potresti essere completamente diverso e non importerebbe nulla. Ed ecco perché che per questa via si arriva a pensare che se ci fossi o non ci fossi, sarebbe tutto lo stesso. E di qui il passo che porta alla disperazione breve. Quindi Amilcare, dovendo scegliere un tipo di montatura, istintivamente optò per una di quelle più sottili, minimizzatrici, nient'altro che un paio di esili stanghette argente che sorreggono al di sopra le nude lenti e con un ponticello le collegano sul setto nasale. Così andò avanti per un poco. Poi si accorse che non era felice. Se inavvertitamente gli succedeva di vedersi allo specchio con gli occhiali, provava una viva antipatia per la sua faccia, come se fosse la faccia tipica di una categoria di persona a lui estranea. Erano proprio quegli occhiali così discreti, leggeri, quasi femminei, a farlo parere più che mai uno con gli occhiali, uno che non avesse fatto altro che portare occhiali in vita sua, tanto che ormai non si accorgeva neanche più che li abbia. Entravano quegli occhiali a far parte della sua fisionomia, si amalgamavano ai suoi lineamenti, e così veniva attenuato ogni naturale contrasto tra ciò che era la sua faccia, una faccia qualsiasi ma pur sempre una faccia, e quel che era un oggetto estraneo, un prodotto dell'industria. Non li amava e quindi non tardarono a cascare e a rompersi. Ne comprò un altro paio, stavolta orientò la sua scelta in senso opposto. Ne prese un paio che la montatura di plastica nera, una cornice larga a due dita, certi spigoli a cerniera che sporgevano dagli zigomi come paraocchi di cavallo, certe stanghette pesanti da piegare il padiglione delle orecchie. Era una specie di mascherina che gli nascondeva mezza faccia, però lui lì sotto, lui si sentiva se stesso. Non c'era dubbio che lui fosse una cosa e che gli occhiali un'altra, completamente separata. Era chiaro che solo occasionalmente lui portava gli occhiali e che senza occhiali era un uomo completamente diverso. Ritornò, per quel tanto che la sua natura glielo consentiva, felice. Gli capitò in quel tempo di recarsi per certi affari a V. Era V la città natale di Amilcare Carruga e là egli aveva trascorso tutta la sua giovinezza. L'aveva lasciata però già da 10 anni e i suoi ritorni a V erano sempre più passeggeri e sporadici e ormai erano passati diversi anni senza che vi mettesse piede. Si sa com'è quando ci si stanca di un ambiente in cui si è vissuto a lungo. A tornarci a lunghi intervalli ci si ritrova spaesati. Sembra che quei marciapiedi, quegli amici, quei discorsi di caffè o sono tutto, non possono essere più niente. O li si segue giorno per giorno, oppure non si riesce più a entrarci. E il pensiero di rifarsi vivo dopo troppo tempo dà come un rimorso. E lo si scaccia. Così a poco Amilcare non aveva più cercato le occasioni per tornare a V. Poi, se occasioni ci potevano essere, le aveva lasciate cadere e alla fine le aveva addirittura evitate. Ma negli ultimi tempi, in questo atteggiamento negativo verso la città natale, entrava, oltre allo stato d'animo definito ora, anche quel senso di disamore generale che l'aveva preso e che aveva in seguito identificato col progredire della sua miopia.

ma appunto per questo aveva la soddisfazione di distinguere alla prima occhiata i vecchi abitanti e gli venivano alla mente episodi, relazioni, soprannomi. Via era una di quelle città provinciali in cui vigeva l'abitudine del passeggio alla sera per la via principale. E in quanto a quello nulla era cambiato dai tempi di Amilcare a oggi. Dei due marciapiedi, come succede sempre in questi casi, uno era affollato da un flusso ininterrotto di persone, l'altro meno. Ai loro tempi, Amilcare e i suoi amici, per una specie di anticonformismo, passeggiavano sempre sul marciapiede meno frequentato. E di lì lanciavano occhiate e saluti e motti alle ragazze che passavano sull'altro. Egli adesso si sentiva come allora, anzi in un'eccitazione maggiore, e prese ad andare per il suo vecchio marciapiede, guardando tutta la gente che passava. Incontrare persone note stavolta non gli dava disagio, ma divertimento, e s'affrettava a salutarle. Con qualcuno gli sarebbe piaciuto anche fermarsi e scambiare due parole, ma la strada principale di via era fatta in modo, coi marciapiedi così stretti, la gente fitta che spingeva avanti, e per di più adesso la circolazione dei veicoli molto aumentata, che non si poteva più come una volta camminare anche un po' in mezzo alla strada e attraversare dove si voleva. Insomma, il passeggio si svolgeva o troppo in fretta o troppo piano, senza libertà di movimenti. Amilcare doveva seguire la corrente e risalire a fatica. E quando intravedeva una faccia conosciuta aveva appena il tempo di lanciarle un cenno di saluto, prima che sparisse o non riusciva neppure a capire se era stato visto oppure no. Ecco che si imbatté in Corrado Strazza, suo compagno di scuola e di biliardo per molti anni. Amilcare gli sorrise e fece anche un ampio cenno con la mano. Corrado Strazza veniva avanti con lo sguardo su di lui, ma era come uno sguardo che lo passasse da parte a parte, senza fermarsi, e continuò la sua strada. Possibile che non l'avesse riconosciuto. Era passato del tempo, ma Amilcare Carrugo sapeva bene di non essere molto cambiato. S'era fino allora tenuto al riparo dalla pinguedine, come dalla calvizie, la sua fisionomia non aveva subito grosse alterazioni. Ecco il professor Cavanna. Amilcare gli fece un cenno di saluto deferente, con un piccolo inchino. Il professore da principio accennò a rispondere, istintivamente, poi si fermò e si guardò intorno, come a cercare qualcun altro. Il professor Cavanna, che era famoso come fisionomista perché di tutte le sue numerose scolaresche ricordava facce, nomi e cognomi, anche i voti trimestrali. Finalmente Ciccio Corba, l'allenatore della squadra di calcio, rispose al saluto di Amilcare, però subito dopo sbette gli occhi e si mise a fischiettare, come accorgendosi di aver intercettato per sbaglio il saluto di uno sconosciuto, rivolto a chissà chi. Amilcare capì che nessuno l'avrebbe riconosciuto. Gli occhiali che gli rendevano visibili il resto del mondo, quegli occhiali dall'enorme montatura nera, rendevano invisibile lui. Chi avrebbe mai pensato che dietro quella specie di maschera c'era proprio Amilcare Carruga, da tanto tempo lontano da V, che nessuno si aspettava di incontrare da un momento all'altro? Era appena giunto a formulare mentalmente queste conclusioni quando apparve Isa Maria Bietti. Era con un'amica, passeggiavano guardando le vetrine. Amilcare le si parò proprio davanti, stava per dire «Isa Maria!» Ma gli mancò la voce in gola. Isa Maria Bietti lo scostò con un gomito e disse all'amica «Ma è così che si portano ora?» e andò avanti. Neanche Isa Maria Bietti l'aveva riconosciuto. Comprese tutto d'un tratto che era solo per Isa Maria Bietti che era tornato, che solo per Isa Maria Bietti si era voluto staccare da V ed era stato lontano tanti anni, che tutto nella sua vita e tutto al mondo era soltanto per Isa Maria Bietti. E adesso finalmente lui la rivedeva. E i loro sguardi si rincontravano e Isa Maria Bietti non lo riconosceva. Tanta era stata la sua emozione che non si era accorto se lei era cambiata, ingrassata, invecchiata, se aveva l'attrattivo di una volta o meno o più. Niente aveva visto se non che quella era Isa Maria Bietti e che Isa Maria Bietti non l'aveva visto. Era giunto al termine del tratto di strada battuto dal passeggio. Qui la gente all'angolo della gelateria o un isolato più in là, all'edicola, girava e ripercorreva il marciapiede in senso inverso. Anche Amilcare Carrugo girò, si era tolto gli occhiali. Adesso il mondo era tornato con la nuvola in sapore e lui annaspava con gli occhi strabuzzati e non tirava a galla niente. Non che non riuscisse a riconoscere nessuno, nei punti meglio illuminati era sempre a un pelo dall'identificare qualche faccia. ma un margine di dubbio che non fosse colui che credeva restava sempre. Poi, insomma, chi fosse o chi non fosse non gli importava poi tanto. Qualcuno fece un cenno, un saluto. Poteva darsi che salutasse lui, ma Milcare non capì bene chi era. Anche altri due, passando, salutarono. Lui fece per rispondere, ma non aveva idea di chi fossero. Uno dall'altro marciapiede gli lanciò un «Ciao, Carrù!». Dalla voce poteva essere un certo Stelvi. Con soddisfazione Amilcare si accorse che lo riconoscevano, che si ricordavano di lui. Una soddisfazione relativa perché lui non li vedeva neanche. Oppure non riusciva a riconoscerli. Erano persone che gli si confondevano nella memoria, una con l'altra, persone che in fondo gli erano piuttosto indifferenti. «Buonasera», diceva ogni tanto, quando si accorgeva di un cenno, di un movimento del capo. Ecco, quello che l'aveva salutata ora doveva essere o Bellintusi, o Carretti, o Strazza. Se era Strazza, gli sarebbe magari piaciuto fermarsi un po' con lui a parlare. Ma ormai aveva risposto al suo saluto così in fretta, e ripensandoci era naturale che i loro rapporti fossero solo così, di convenzionali e frettolosi saluti. Il suo girare gli occhi intorno, però, era chiaro che aveva un solo scopo: rintracciare Isa Maria Bietti. Aveva un cappotto rosso, perciò la si poteva avvistare da distante. Per un po' Amilcare seguì un cappotto rosso, ma quando riuscì a sorpassarlo vide che non era lei, e intanto altri due cappotti rossi erano passati in senso contrario. Quell'anno andavano molto i cappotti rossi da mezza stagione. Prima, con lo stesso cappotto, per esempio, aveva visto Gigina, quella dei tabacchi. Una col cappotto rosso adesso lo salutò per primi. Amilcare rispose freddo freddo, perché era certamente Gigina, quella dei tabacchi. Poi gli venne il dubbio che non era di Gigina, quella dei tabacchi, si fosse trattato, ma proprio di Isa Maria Bietti. Ma com'era possibile scambiare Isa per Gigina? Amilcare tornò sui suoi passi per sincerarsi. Incontrò Gigina, questa era lei, non c'era dubbio. Ma se venivi in qua adesso non poteva essere lei che aveva fatto tutto il giro, oppure aveva fatto un giro più corto. Non capiva più niente. Se Isa Maria l'avesse salutato e lui le aveva risposto freddo freddo, tutto quel viaggio, tutta quell'attesa, tutti quegli anni passati erano inutili. Amilcare andava avanti e indietro per quei marciapiedi, un po' mettendosi gli occhiali, un po' togliendoseli, un po' salutando tutti e un po' ricevendo saluti da nebbiosi e anonimi fantasmi. Dopo l'altro estremo del passeggio, la strada si allungava ancora e si era presto fuori dalla città. C'era una fila d'alberi, un fosso, di là una siepe ai campi. Ai suoi tempi la sera là ci si arrivava con la ragazza a braccetto, che aveva una ragazza, oppure se si era soli ci si andava per stare più soli e sedersi su una panca e a sentir cantare i grilli. Amilcare Carruga continuò da quella parte. Ora la città si estendeva un po' oltre, ma non tanto. C'era la panca, il fosso, i grilli, come prima. Amilcare Carruga si sedette. Di tutto il paesaggio la notte lasciava in piedi solo delle gran fasce d'ombra. Gli occhiali, a metterseli o a toglierseli, lì era proprio lo stesso. Amilcare Carruga capiva che forse quell'esaltazione degli occhiali nuovi era stata l'ultima della sua vita. E adesso era finita.